presunti abusi sessuali. GR24. Ma gli estremisti di destra non si danno per messaggio. Il Papa auspica che il grido del mondo per la pace diventi. Accusati di aver sterminato un'intera famiglia. I giapponesi della corrente Tendai vogliono tenere vivo lo spirito della giornata di preghiera. Consiglio mondiale del movimento cattolico piange le 100 vittime del disastro ferroviario. Ma come scorre questo tempo liquido? Con le sue incertezze, i suoi dubbi, i suoi però. E noi a scegliere fra i negozi del viale, a prendere e lasciare, comprare e mangiare. E quante idee, opinioni, ideologie, mezze verità e mezze bugie. E noi a scegliere qualcuno da ascoltare, qualcuno a cui credere, qualcuno di cui dubitare. In bilico fra terra e cielo, reale e mistero, e quella strada che non porta dove pensavi te. In bilico fra terra e cielo, fra il bianco ed il nero, il grigio tanto poi lo facciamo noi. Quale identità stai vivendo ora? Non so più la mia dove sta. Cos'è la verità? Ma come scorre questo tempo libero? Con le sue prigioni, i suoi sogni, i suoi sarò. E noi a scegliere qualcosa da cercare, qualcosa in cui credere, qualcosa in cui sperare. E quante immagini, quante categorie, pensieri, corpi, uomini, fedi e strategie. E noi tutti in piazza per la manifestazione. Sei contro, a favore, ma dov'è la ragione? È in bilico fra terra e cielo, reale e mistero, e quella vita che non era come la volevi te. In bilico fra terra e cielo, fra il bianco ed il nero, e il grigio tanto poi lo facciamo noi. Cielo, reale e mistero, e quella cosa che non era come la vedevi te. In bilico fra terra e cielo, fra il bianco ed il nero, e il grigio tanto poi lo facciamo noi. Quale identità stai vivendo ora? Non so. La verità.